Io ti volpo. Oggi di io sono andato in annanzi, ma faccio sei, andiamo andando. Non c'è più gente che è arrivata a mo', già potremmo fare. A me se proprio mannaggia, oi, pensa bene. Attenzione, binario 10, K. Attenzione, binario 10, copiate Antonio, KK. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno? Sì, però aspetta alla Paleosta. La Paleosta, dove abbiamo fatto il spazio? Che io così, che sono la faccia? Ma che saranno le cinque, si può fare, che si fa tutto. L'importante è che per come ho detto io faccio parte, perché non lo so, accettate il testo. Bello, chiedi? A tutti. Attenzione, cari, sono andata a prendere qualche avanza, ciao. Ehi, a capo, già, mi sente? Cristo, Cristo mio. Kappa. Ma spinge molto di più anche. Spinge molto di più nel senso che è il segnale, dai. Vediamo un po' se c'è la vita di più. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fatti amante, si sintonizza l'ascolto. Hola, attenzione, canale 10. Alessio. 75, ok. Alle due qui, sono ancora più basse. Meglio così, anche io sono come te, ci trovo basse anch'io, e poi con il caldo, non salto, con le sassetane salgando, grando più, grando bazziera. Io sono ancora... Io ho dovuto vivere poco fa. Sono andato a disturbare un PL e mi è rimasto il PL in mano, il pezzo di bianco che me lo portava a passeggio, in più il polo centrale che gira da solo, quindi adesso bisogna che io li faccia, li metta per la pena di ATAC all'interno, nei fianchi, e così almeno non si muove per niente. Allora, se il BL ragazzo, che stavo vendendo, non leggi vicino, Fusaro. Ancora che si vede ci trattende, su internet, l'ha detto mille volte Marco Conto, mi vuole coordinare, ma siccome sono troppi, ha detto se ne prendiamo due per uno, roba del genere, li ordina e poi ognuno gli dà i soldi, capito? Perché non conviene comprare quei piedi, io ne ho ancora di quelli nuovi di zecca mai usati, quelli in macchinette, però non li do perché servono a me, quelli lì non li do, che tanto non li facciamo, è un casino. No, qua non si trova niente, frega, te lascia aperta, è fatto bene a tenere lì. Hai capito? È fatto veramente bene. Adesso addirittura ne avevo uno che si avvitava la calzamaglia, si avvitava, di quelli che si avvita la calzamaglia per RG58. Si avvitava e basta. E quindi sono ben forti quelli lì. L'ho messo su nell'antenna, perché è forte come piede. È meglio così, veramente meglio così, se esce bene, dici positivi, adesso già va bene, sono con 30, vediamoci. 50. Ma tanto va per tutti come so. Cosa che ci uscito dopo po'. 80 watt, allora, tondi tondi, 80. Sì, ma non è chiara la radio. Mi dà picchi negativi. Nel vostro naturalmente, nel vato molto bello, nel coso invece no. Allora, mi dà positivi. Allora, passiamo a 50. Allora, adesso va bene, dovrebbe andare benissimo. E poi quando lo metti a 50 sale da solo, sale piano piano come scatta, sale. E vabbè, tu lo sai che non è nato con 100 watt, io lo sai che tu è nato con di meno, 40 watt, massimo che ti dava una M. Poi quando lo porti a modificare te la di più, come avere la FM500S che ti dà 4-5 watt e poi lo porti a 10. Vabbè. Ma forse finali, capito? Ti sposti. Già lo so, non è, non mica lo sto scontrando, io ci mancherebbe. Io quando ho comprato la 340 me l'ho fatto arrivare da fuori, ho detto guarda che non è, detto, voglio un apparecchio che non sia già fatto e modificato, quindi ho detto mandamelo come ti pare, ti piace, infatti mi ha mandato il 140 se lo smetti mi ha mandato addirittura, non sono di altro, una cosa trova antenna, c'era poca roba, però la panica funzionava benissimo, la verità. Lo mettevo a 50 watt, era perfetto, non c'era nessun problema. Poi l'avevo dato, perché me l'avevo chiesto, dice me lo vendi, e ho preso e l'avevo dato. Ma tu quello che c'hai adesso è quello che ti ha venduto Claudio. Sì, esatto, quello che mi ha dato Claudio, sì, esatto. Sto usando quello. E adesso ce l'ha già un bel po', quello di durato, dai. Vabbè, adesso sta funzionando tutto. La ventola, il prima usciva tutto disgraziato, eccetera, eccetera, gli ho messo tutti i servizi, quindi adesso va veramente bene, sta funzionando bene. Visto che è allineato anche in banda laterale, non è nessun problema, quindi c'è bene, la verità. Con qualsiasi microfono, infatti non lo voglio neanche dare. È stato inutile stare, cioè, lo vendo e poi me ne compro un altro, magari quello che compro cazzo da fuori è un cesso, eccetera, eccetera, vai a dire a quello, dico guarda, fa la cosa, tieni te lo conto e me lo cambi. Quello ti dice ascolta, te l'ho preso e te lo tieni, a un certo punto, quindi non mi fido per niente. Con questa parecchia qua già lo sai anche tu. Adesso vediamo un po', l'unica cosa che mi voglio prendere è l'effetti 101. L'altra volta c'era uno 125 euro, stavo per mandare e poi ho chiesto a un amico, mi ha detto c'è 125 euro, dice ancora non è possibile, quindi quello ti sta pirando di culo. E quindi ho detto fa una cosa, ho detto tienitelo conto e vai a cagare, così gli ho detto. Trattore Taranto, Sud Italia, che fa chiamata. Avanti, la città di Sassari, nord Sardegna, che ti risponde, l'operatore Gianni Doppio Rumba, avanti. Trattore Sardegna, se copi Taranto. Capa Taranto, al 100%, Santiago di Nova, è una radio di 5 a bomba. Ti ascolto benissimo, non so come tu mi stia ascoltando, però io ti ascolto molto bene. Chi trasmette per te è l'operatore Gianni Doppio Rumba, avanti. Buonasera Taranto, ascolti Sassari. Scappa, c'è anche l'amico Antonello, dai, vediamo un po' se l'ascolti. Io non l'ascolto più, penso che l'ascolti tu, ma io non l'ascolto più. Attenzione Taranto, guarita la propagazione, cazzo, è arrivato Nove Radio C. E la potete fare altro. Perché non è continua come propagazione. Ma comunque già entra, no? È come se ci sentono parlare, già entra. Fra un po' già attacco di getto, lo scudo CTE col pilotato con 140, così il piloto con 140 con 4 watt, e lo spini lo lascia andare così com'è, tranquillo, non è come pompa, a me non c'è, non sfrutto i finali del Kevut, e sfrutto i finali delle, come si chiama, delle 15 CTE al valvole, non è come pompa. Ma 140 quanti fatti di dai di entrare? 4 watt d'ingresso, no? Basta dargli 4 watt d'ingresso, no? Basta regolarsi e non c'è problema. Lo puoi fare anche tu, se tu c'hai quello lì, se c'è l'unità della non so, a 300 watt e cose del genere, non fai altro che pilotarlo, gli metti un vostro metto prima, cosa fai? Lo metti 3-4 watt, ti metti a fischiare, a parlare, a fischiare, e vedi quanti watt ti va da 4 a 6, tanto per dire, se arriva anche a 10, sei tranquillo. Dopodiché quando vedi che aumenta, prendi e scendi leggermente di watt, e esci come facevo io come il V2001 una volta, che usavo lineare, nessuno se ne accorgeva che c'avevo 600 watt sotto. Pilotati con lo 680, figurati tu, mi sono pentito la bella lata con la parecchia, se avessi saputo me l'avrei tenuto, avrei messo una parte, fanculo a me, e che ho avuto, infatti che sono passato da una casa all'altra, eccetera, eccetera, erano arrivati 150 euro di cosa, ho avuto, mamma non me l'ha voluto prestare, eccetera, eccetera, ho avuto vendermi l'apparecchio. Se no, se qualcuno me l'avrei tenuto a casa, quella in 60, questo qui per da poco ma sicuro. Vabbè, adesso ti direi, allora, che buono. Sta scendendo una, allora. Sono qua di che si fanno quando sono a voce. Adesso sono a casa mia, sono tranquillo. Ma prima non lo ero, ero tutta la patallata, eccetera, eccetera. Vabbè, sono tempi che furono, come si dice. Sì, ti la metti che andavo via a Rizzidu. Via Rizzidu, io, la capellina. Mi sono divertito. Ricordavo le FT250. L'altra volta stavo per prendere le FT101, ma mi sono accorto, ho detto qui c'è qualcosa di strano, 125 euro, questa non vuole solo. A un certo punto ho detto, secondo me è incurata. Ho telefonato un amico e mi ha detto, c'era solo perdere quello e te la vuole mettere in culo. Quando gli ho chiesto in pratica, guarda, ha detto, dammi la fotocopia del codice fiscale, ha detto, della posta per il tuo, non me l'ha voluta mandare, mi ha mandato solamente i numeri e basta. Ho detto, fa la cosa, dietro racconto l'apparecchio, ho detto, e fregatene, io non ti mando manco il soldo, ho detto, perché mi stai pieno per il culo, così l'ho detto, infatti non si è più visto. Sì, ma infatti no, sono specchi per le allodole quelli di te. È proprio raro una cosa del genere che accada, magari qualcuno se ne vuole sbarazzare che non è nell'ambito e magari ha del fatto, delle cose, non se ne fa nulla, l'altro da quel poco compreso, però c'è gente che si informa anche e gli dà il prezzo giusto. Ehi, ma 125 euro, io, cazzo, mi costa 400, massimo 500 euro nell'FT101, quindi questo lo valeva 125, secondo te non resta il prezzo. È come vedere i 140 milioni, 120 euro a un certo punto. Lo metto lì, mandami i soldi a posto di mandargli i dati miei, gli dico solamente il numero della carta, magari il numero della carta è intestato un altro, hai capito, qualche numero, cosa del genere, così poi si intacca i soldi e mi attacca a pupa. Sì, ma infatti non conviene fatelo mandare e poi lo paghi, dopo quando ti arriva lo paghi al corriere. E vabbè, se vediamo, ci sono tanti negozi che stanno vendendo, visto su Facebook, quindi a un certo punto basta che mi rivolgo lì e posso avere l'apparecchio che voglio, non è quello il problema. Io lo so, adesso ci sono molti furti dove dove ci sono cibi, radiamatui, eccetera, vendono apparecchi, eccetera. E appunto per quello. Appunto per quello. Andate. Adesso si aspetta un attimo, 5 minuti, stacco questo coso qua e lancio le tavole in lineare, vediamo come esce. Quanti watt? Aspetta, prima devo scendere il watt. Allora, qui sono 10, 8, 5, 3 watt, ok, picchi a 10, all. Adesso attacco il digetto, mi collego lineare e vediamo un po' come esce. Che va, una buona importante senza provvizzare. Oh là là. Ok, adesso possiamo scaldare. Cava. Ci vogliono 10 minuti. Aspetta. Mi piglio una lattina, me la bevo piano piano e poi proviamo. Quanto mi sei dato? 3 watt e mezzo, quasi 4. Aspetta un attimo. No, è uscita. È in uscita, come si chiama, dell'apparecchio. Poi già mi regolo con lo fantometro del lineare. Adesso attaccato, sì. Ah, oh, deve scaldare, cazzo, cosa ti dire che sia? Cosa? Si è appena accesa la valvola, lasciami il tempo di 10 minuti. Da quanto è il lineare, da quanto è? 100 watt, quindi figurati. Sì, facciamo 600. Ah, come 600 ce l'ho buttato. Ci vogliono i finali, ci vogliono. Hai capito? Appena c'ho un po' di soldi mi prendo direttamente il lineare. Da 600, da 600, sì. Ce l'ho il filo. Come ha fatto cosa? Un lineare da 24 volt li metto sopra, faccio gli attacchi e posso agganciare quello che voglio senza stare a rompermi le balle ogni volta, eccetera eccetera. Posso mettere 750, 600, 500, quello che è, ma se sia 24 volt gli aggancio i cavetti, li faccio i fori dietro e io sono a posto. Facci qua quello che vuole entrare. Buonasera a tutti, per un saluto. Sta arrivando il maresciallo, quindi vi saluto e basta. Ecco, oh, ciao, sotto le griffie, sì. Come fai a avere il maresciallo tutti i giorni tu? No, era 2 giorni che non finiva. Abbiamo delle cose non prorogabili da fare qua. Ma perché non lo mandi allo spinco questa mattina? Lo mandi lì, dici, guarda, ascolta, fai la spesa e prendimi quello che ti dico io. Sapete qualcosa di Natalino? No, io non ho chiamato. E nemmeno io, perché l'avevano appena operato e non mi andava bene chiamarlo. Non stavo bene, dai, ma sicuramente non avevo pure. E infatti. Vabbè, signori, dai, un bacione a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao, grazie per la benedizione. Di Antonio. Marco, ti vado tutto. Da quello non sono morto, aspetta. Allora, vediamo un po'. Allora. Tiro. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, come ascolti? Pro. Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quasi 9, 3, la radio è un po' compressa, ma non più di tanto. Ah, ok, cioè, vabbè. Ehi! Mi lo dai il tipo di televisione? Aspetta che mi ha chiamato Simone. Attenzione, Brecco, se mi copiate. Avanti l'attenzione. Ti copiamo, avanti. Scappate, mi copiate qua, non l'Italia che vi chiama. ti risponde invece la città di Sassari, il nord Sardegna, l'operatore Gianni Doppio Rumba, avanti. K7351, buonasera Sardegna, qua è la provincia di Sondrio, operatore Luca, 1 Sierra Lima 004. K165DR, da parte mia, l'operatore Gianni Doppio Rumba, ripeto, non so come ti stia arrivando lì da quelle parti, in propagazione naturalmente, sto uscendo con un Galaxy Saturnecco e l'antenna è una LEM Super LEM sul tetto. Ecco, scusa ma ti copio proprio basso, la propagazione va e viene la propagazione e ti ascolto un po' bassettino, questo passaggio non sono copiato. Guarda adesso come mi ascolti. Adesso mi ascolti, cambio. Arrivi tutto compresso, arrivi un po' tutto compresso. Non hai la banda laterale, l'USB, ce l'ha? Sì, ma siamo qua in questo canale, ci sono altri amici, non vorrei che poi... Guarda, adesso la compressione si può regolare, dai, ma si va. Guarda adesso come va, dammi un segnale. Attento Sardegna, se mi copi ancora? Sì, ti copio abbastanza bene, forte e chiaro. Va via il segnale, quindi un po' di QRM per quello, ogni tanto non ti copio. K, qua sei Santiago 7, la radio di 5, avanti di nuovo, non so in che condizioni di trabacco sei, quindi me lo dirai con che apparecchio esce, che tipologia di antenna usi. Che antenna uso? K positivo. K, io sto usando un Lafayette Trus, un microfono, sto usando un lineare più o meno con 60 watt adesso. K, sì, ho capito. E il Petrus è più o meno come il mio apparecchio, sto usando un Galaxy Saturnecco. Il Petrus è meno completo perché mi sembra che non abbia il frequenzimetro, confermo. Mi siete sono modulati la ragione a tutti. Non ho capito nulla. Non hai l'USB te? Ma sto, passa l'FM, ce l'ha l'FM. Se mi ascolti vai, passa l'FM. Alessio, ci sì. Sattero. Guarda adesso quanto ti fa. Così già. Non è limpida. Guarda, dimmi quando va bene, lo sto regolando. Prova a abbassare. È abbassato. Così è abbassato un bel. Guarda adesso come va. Già, io ho un po' di saturazione da 100, c'è tutto a zero, NL, noise blank, tutto tolto. Naturalmente è capibile, quello sia chiaro. Sì, ma saturazione, aspetta, ora lo chiudo del tutto, vediamo un po' come sta andando adesso, 1, 2, 3, 4. Io adesso ho un bisù. Prova adesso, va, io voglio regolarlo giusto, prova adesso. Secu. Attenzione mon amici, qui c'è la Sardegna che ti fa bene, sia la stazione Delta Romeo della Villa di Sassari. Guardateci. Poi già, conta che in vicinanza magari un po' peggiora, in distanza ma ancora se ne accorgono della saturazione. Chi lo sa? Infatti così, io lo posso mettere al massimo, a distanza ma se ne accorgo. Eia, comunque sì, un po' se la mangia, c'è poco da fare, un pochino se la mangia, ma qual è quello il solito? Eia, anzi, a me sembrava strano che saturasse, contando che solo transistorizza, c'ha 6 MOSFET quello. No, aspetta, ne ha 4 più 4, sono 8 MOSFET più il pilota. Allora, adesso faccio una prova. Guarda, dimmi se satura così, o passa più uguale. Sì, ne satura, però mi era sembrato che avesse una modulazione che a momenti come si abbassasse, come tipo fatti i contatti sul mic, ma magari un'impressione mia. Mi appai la roba, sempre saturato sta. Eh sì, già, non è limpida, si sente che non sei liscio. Frecca 10. Avanti. Sì, ciao Gianni, ciao Marco, ben ascoltati. Già che ci siete, tra un controllo e l'altro, mi potete dire come sto uscendo di radio, grazie? Discretamente. È molto bassa? No, anzi. Ah, è troppo alta. No, troppo alta no, ma non è molto bassa. È un po' nasale, magari quella è la voce. È nasina un po'. Però il volume va bene. Ah, ok. Perché questo va. C'è il microfono. Cioè, non è un microfono, capito? C'è la cornetta. C'è il microtelefono. Va bene, ok. Comunque l'importante è che sia comprensibile. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, Gianfranco. Il carabinieri l'ha fregata la cornetta. No, ho capito già. Hai detto? Ho detto qual è quella dei carabinieri. Noi ce l'avevamo al ciso, ce l'avevamo la cornetta e col tasto. No, perché è anche portatile questo, ho capito. Adesso sto uscendo anche forza, credo che ci abbia un watt e mezzo. E allora ce ne per il pulso. Se è un portatile va benissimo. Non è un portatile come lo intendete voi, è un main pack, come lo chiamerebbero gli americani. Stavo ascoltando. Chi sei? Scusa, ci sono entrato in piede già, stavo ascoltando. È una bomba qua, cioè io di segnale ti sento una bomba, gli cose un po' meno. Non mi ricordo chi sei, però ti ho riconosciuto quasi. Capa, scusami già, sono entrato col piede sbagliato. Sei entrato. Ora, aspetta che devo fare un cosa per raccontarmi, aspetta. Ok. Aspetta momentaneamente, se ha messo stand-by. Devo fare la modifica dei cavetti. Non è il piede che è sbagliato, è che fa abitato sopra di me. C'è anche Antonio. Sì, glielo senti. C'è da poco fa Antonio, solo che è andato a mangiare. Mangiate. Gianfranco, c'è ancora? Sì, poco fa non ho sentito niente perché era tutto un fischio. Comunque, volevo salutare, buona serata, buon presente a tutti, c'è anche Antonio, perlomeno non mi è sembrato lui. Buona serata a tutti. Sì, capo, dai, io vi saluto, sto andando a mangiare il bambino, poi devo andare a lavoro. Ciao, vi stavo ascoltando, ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao, ci sentiamo, buon lavoro quando vuoi. Ciao Gianfra, ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao Gianfranco, ciao Antonio. Io sto per chiudere già, appena non riprendo vuol dire che stiamo iniziando, ok? E mi sa che vado anch'io che devo andare al supermercato a comprare qualche cosa e non mi decido sempre perché c'è caldo, cazzo, non mi viene pure l'uscita. Te l'ha detto Pomponio ieri che c'era una propagazione strepitosa per l'Italia? No, non mi ha detto niente. Io non ci sono entrato ieri perché ero a cena a casa di una amica, quindi non ci sono entrato. Eia, io ho ascoltato brevemente, ma vedevo questo segnale 9.15, poi scendeva a 5, 7, 9, 9.10, 9.15, un continentale, non so da dove, c'era una propagazione strepitosa, Italia e anche non Italia, c'era di tutto, gente in AM, gente in FM, gente in USB, LSB, e va bello, io me la son persa. No, mi ha telefonato Antonio che c'era un po' di propagazione, io stavo facendo un contesto di canto, gli ho fatto la canzone. e poi ho mollato, cioè, sono entrato qua. Ma quando sono entrato non era più nessuno. Poi è entrato qualcuno, ma non era continua. Eia. Va bene. Dai, continuate Antonello, riprendi, io QR tango per me, dai. Eia, ok, aspetta che sto accordando un attimo. Stazionale. Perché mi segna questa così, questa cosa forse ho sbagliato io. Ah no, è giusto. H. Cosa c'è? 10 di stazionale? Ho capito. Ho sentito che ho detto 10 cose. No, stavo facendo la regolazione, aspetta un attimo. Ah dai, vabbè, io adesso vado, che devo andare a fare un po' di spesa. Non ce l'ho fatta uscire prima, c'era troppo caldo. Vabbè, adesso vai, ok. Ciao. Ciao. Ma venne cagliura. Adesso ci siamo. Allora. E ora 50. Parte. Un po' la cosa tu deve essere sbagliata. Allora, è giusta. Allora, vediamo un po' che si deve fare. Dimmi. Sono io che porto rogna, oggi hai incontrato me dello spin. no, c'è tra niente Marco, io cazzo ci mancherebbe. Non è quello il problema, cazzo. E come si chiama la bobina che se lo prende il coglione? Domani quando cambia il vento prendo il vento, cazzo, lì come si chiama la cosa a caldo, che lei non si muove più. Ebbene, dice, solo tu ci sei. Ehi, per il momento sì. Ehi, ascolta, da dov'era ieri quel tizio, quel continentale, da dov'era? Venezia. Cavolo, Venezia, qua arrivava a 9.10 con picchi anche a 9.15, poi scendeva, poi saliva. Ma sembrava un segnale locale, allucinante, guarda. Guarda che io l'ho preso per Gio Maria, mi ha detto. Appena entrato, c'era la voce uguale identica a Gio Maria ci aveva. Poi mi sono reso conto che invece era un altro. Perché Gio Maria non dice né. Bella propagazione ieri. Io, vabbè. Sa stavo riposando tutto il pomeriggio, me la son persa. Ah, fa Napoli a me. Non mi metto che coglioni tanto di accesso la bobina, no, è già un bel che non lo facevo questa cosa del genere. Vabbè, domani salgo sopra e li metto con l'altro, a me non si muove più. Pigliati la Grazioli, così non ci pensi più, materiale di prima scelta, eccetera, eccetera. Pigliati la Grazioli, se volete iniziare a pagarmi 200 euro, ne piglio 750, più le medicine che deve pigliare Simone, altro di Grazioli, la cappellina. Per il momento non ci penso nemmeno a pigliarmi una Grazioli, l'unica cosa vale è che mi serve se riesco a trovare una tela di macchina di quelle che vogliono buttare a poco prezzo, 20 euro se la biglia in culo, non me ne frega niente, mi serve di riserva, che se no così cazzo divento scemo io. Me la metto agganciata, come si chiama, alla finestra e parlo con quella. Ciao Marco, buonasera. Ciao Giomari, buonasera anche a te. Tanto è. Beh, tutto bene? Più o meno sì. Più o meno. Quello che va bene va bene, quello che va male va male. Cosa posso fare? Sono salito sto passo che poco fa, ho toccato 2 secondi la bobina e è scesa 1-1, adesso è salito 1-2. Come è arrivato un colpo di vento forte, stazionale sono salita a 2. Allora fanculo. C'è la vita, devo stringere di più. Querete esecutivo Antonio, ciao, ci sentiamo. Sì, ciao Marco, ci sentiamo. Querete, alle prossime. Otto, ciao Marco. Beh Giovanni, come va? C'è male, ma non mi sente forse Marco. No, già ti sento, non ti preoccupare. Come sei a casa, sì? Ehi, già. No, già vai bene. Perché è basso, No, già ti sento bene, ci mancherebbe. Beh, stavo spazzolando così. C'è un po' di propagazione, però no, io mi tengo, ma così tanto per sentire avere un po' chi c'era, va. Un po' molto di propagazione ce n'è. In FM ce ne sono parecchie. Me ne sono accorto. Ma come tu non tieni una macchina c'hai da vendere? Modello vecchio, non me ne frega niente, basta che funzioni. No, è quello là, vorrei dare. Quello ruggio, quello che c'ha che avevo anche a te. Io sto dicendo una macchina, no, antenna. Ah no, non ho antenna. Non ho antenna. Sono la 50 che è nuova, qua dentro la bustola. Ma è VU quella lì. Però non la do da. Non ho altre antenne. Ne avevo tre nuove, le avevo date a coso a quello di Forza Torres. Allora, antenna di macchina per 27 parlo, di bocca per ce l'ho, non è quello il problema, quella 27 più che altro. No, le macchine non ne ho nemmeno una, ho dato tutto, le macchine esterne, non c'ho più niente, guarda. Ho dato tutto, Antonella, cosa ne faccio? Guarda, ero a 7 magazzini, buttate lì, allora ho cercato, qualcuno già l'ho trovato e gliel'ho dato. Vabbè. Quindi qualcuno se ce l'ha, un'altra di macchina, gliela pago, non c'è problema per quello, hai capito? Che io la mia l'ho data a Giovanna, quindi, hai capito, la stessa lì, gliel'ho regalata a lei, io pensavo che non lo usavo mai, e invece l'ho comprata e io già mi serve pure, di riserva, perché c'è l'antenna sui stazionari. Quindi devo stare sempre a salire, scendere sopra il tetto Come mai due stazionari? Cosa è successo? Allora, solo la bobina dove si è andata a fanculo. nel senso che si è smollata la vite e cose del genere, capito? Si muove, non si muove, quindi non fa il contatto, quindi salgo sopra con una 10 e stringo. Ma tu c'è la turbo, uscire. Esatto, sì, bravo. Sono per il faccioso quelli lì, quelli in realtà sono tutti il faccioso. Anche quella lì che ci aveva chiuso era sempre così, dalla bombina, casina. Allora se impriassi che mi faccio, appena mi fa una cosa omicidile, mi facciano. È un macello, vabbè, se per non comprarmi l'antenna nuova della macchina, cazzo ne vuole un bel cosa, Tonino, che la tua me lo fusava. Cazzo, una gran più di 100 euro la fusava, ma stai scherzando, 100 euro cazzo mi compravo la manca, vai. E già non gridi, 100 euro, beh, ma fredda, chi c'è macco? Ah, mi interessa un'altra macchina, di quelle modello, anche modello vecchio, non ne sbatte nulla, di quelle che si usavano a vuota, di quelle tipo radiale di boomerang, ce l'hai presente? Ah, sta pagando la 20 euro, mi sta anche bene col basamento e il cavetto, poi il resto gli ha, cioè il magnete, perché c'è la magnetica, l'ho prestata a un amico, che in pratica la usa in macchina con la, cioè la X300 col magnete, quindi in pratica come lui non usa mai, a lui della X300 non gliene fotte nulla, in pratica, tanto meno mi metto l'antenna di riserva per la pella 27, che se no cazzo così è un casino, cazzo. Io le ho due o tre la macchina, ci ha passato via tutto Franco, Franco California, tutta lui avevo dato, là. Come facevo, ce l'avevo buttato in magazzino e ci ha portato via tutto lui. Adesso non ne ho nemmeno una, ne ho una che è 70 cm con la base magnetica, però quella me la lascio, non si sa mai quando vado fuori, sicché non la do, solo quella ciò, per adesso faccio tutto quanto. Beh, acqua sarà poco, Antonio, dai. Adesso vediamo un po', dai, chiacchierò a mie nipote. Io non posso vedere la sera, non posso comprare un cazzo io con la carta, quindi devo chiedere a lei, c'è la posto qui, come se ci sono le antenne in vendita, 70 euro, 80 euro, stazione fissa, me ne prendo una, ma fa culo, non so a girarmi le balle. La mantova la stacco e la sistemo bene e me la tengo in riserva. È l'unica. Pensi ne una di quelle lì e sei tranquillo. Ma qualcosa si potrebbe fare in questa bobina, gatta. Che schifo che hanno fatto, gatta. Beh, non si riesce a mettere a posto bene. Allora, il cerchio che c'era la vetrovesima è tondo, se tu gli metti il bullone e stringi da fuori, non ce la fa mai a stringere la bobina, hai capito? Il discorso è quello, siccome non c'era niente, non c'era nulla che bloccava, quindi a un certo punto quella cazzo li mettevo, io ho fatto smontare il bullone eccetera eccetera, hai capito? Ci ha avuto una specie di pinza a becchi lunghi in modo da bloccare, forzare eccetera eccetera e invece mi ha buttito, ma fa il culo. Adesso vedo di buttarla giù e fargli la modifica, perché non è possibile. Gli metto un po' di cosa in quel bullone, due o tre bulloni li metto e gli faccio la cosa e piano piano infilacelo dentro con una pinza lunga. Bisogna pensarci tanto bene. Grazie, ecco che si può risolvere, dai. Con la pazienza, piano piano, e fai così, vedrai che la metti a posto. c'era qualcuno sopra modulato, avanti, non ci vuole entrare, pazienza. D'accordo, allora ci sentiamo, vai. Stavo spazzolando e vi ho sentito, sono entrato a salutarvi, vai. Ci sentiamo, Antonè. C'è Marco in ascolto, saluto anche a Marco. Ciao, Antonè. E io, ciao, ci stiamo alle prossime, dai. Ciao, come sto partendo. Poco dopo la bobina, vediamo se scende la stessa lascia. Bisogna fare proprio così, a un certo punto. Se no, gli metto un laccio, in modo che manca fermo e se la abbiglia in culo. E fai così. Ciao, ciao, Antonè. E io, ciao, alle prossime, ciao. Attenzione, canale decimo, ascoltato con cambio. Poi, se non posso fare,